Evidentemente c'è una enorme delusione, anche se era un esito in qualche modo previsto, nel senso che il carattere più conservatore della Camera dei Deputati e del Senato argentino è qualcosa che era noto e si sapeva che la battaglia non sarebbe stata facile. Però ho ascoltato diversi interventi, diversi argomenti, diversi momenti del dibattito, e quello che colpisce è l'assoluta indifferenza di fronte alla sollevazione della piazza, un'indifferenza che ha portato a affermazioni evidentemente gravissime, che però sono il segno assolutamente inconfutabile, per esempio quelle che dicevano che la violenza domestica in fondo non è violenza e quindi non può giustificare neppure quella, l'aborto e così via. Il messaggio che questo voto ha mandato è che il corpo delle donne deve essere pienamente disponibile, che può essere pienamente disponibile per la violenza maschile e per la violenza della società. Cioè dobbiamo capire che in questione è evidentemente la possibilità per le donne di decidere liberamente sul proprio corpo, di rifiutare il dovere sociale della maternità, ma è in gioco una rivendicazione collettiva e globale di libertà, ed è esattamente questa che il Congresso, che il Senato ha rigettato. Però non ho visto soltanto questo, perché stanotte, in questi mesi, in questi anni, noi abbiamo assistito alla prima lotta globale contro l'oppressione di cui le donne sono state protagoniste e che è stata in grado di coinvolgere tantissimi soggetti che in questo riconoscono una battaglia collettiva. Le prime parole di fronte al grande schermo, di fronte al congresso, che le donne, le femministe presenti in piazza hanno pronunciato al microfono sono state: noi abbiamo fatto la storia, noi stiamo facendo la storia e continueremo a farla. E io credo che questo sia il punto essenziale. Ieri in tutto il mondo ci sono state delle piazze piene, l'America Latina è stata letteralmente inondata, e questo dimostra che non si tratta soltanto di una legge nazionale, non solo perché in tantissimi paesi dell'America Latina e non soltanto, quella sull'aborto è una battaglia evidentemente aperta, ma anche perché questa lotta sta aprendo un orizzonte di possibilità, sta sollevando le pretese di tutti quelli che non sono più disponibili ad essere oppressi, ad essere sfruttati, ad essere nel piano più basso della gerarchia. Io credo che questo non si perda e che sia esattamente quello che avremo ancora davanti, perché quella piazza, quelle donne, questo fuoco, come l'hanno chiamato, non una di meno, sicuramente ni una meno, sicuramente non sarà spento da quello che è successo ieri sera. Quindi insomma è semplicemente un rinvio di questo risultato della battaglia. Sì, anche perché è evidente che la battaglia si gioca su più fronti. Questo movimento ha colto l'occasione di questa battaglia, che ricordiamolo è una battaglia che va avanti da anni in tutta l'America Latina, in particolare in Argentina, ma soltanto in questi anni, in quest'ultimo anno è riuscita ad approdare come proposta di legge al Parlamento e al Congresso. E questo non è indifferente, questo è successo perché la lotta contro la violenza maschile, la violenza patriarcale è stata una lotta potentissima. Questo è successo perché lo sciopero ha accelerato ed ha reso globale quella lotta. E questa lotta le femministe in Argentina, in tutto il mondo, lo stanno facendo chiaramente, non riguarda soltanto, diciamo così, delle vertenze di categoria, riguarda delle battaglie politiche complessive, riguarda l'indebitamento, riguarda l'impoverimento, le espropriazioni. Ed è evidente che su tutti questi fronti le lotte, le donne che in questo momento, che hanno occupato la piazza per tutta la notte sotto la pioggia e all'addiaccio, sono pronte a continuare questa battaglia.